storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera. Buonasera a tutti voi cari ascoltatrici e gentili ascoltatrici da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio, so che stavi poco bene, spero che sì, stasera... Diciamo che ho avuto qualche piccolo inghippo, diciamo, fuori stagione, chiamiamolo così, ma ormai non ci sono più, come dicevano una volta, le mezze stagioni, giustamente. Purtroppo quindi no, magari... Bisogna che ci accontentiamo. Ah, sì. Ma non demordiamo naturalmente dall'essere con noi. Ah, mai? E quindi diamo un cordiale benvenuto, come si diceva, alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet bluradioveneto.it e il nostro numero di telefono per sms, consigli, proposte e suggerimenti 346 23 20 033. È anche possibile naturalmente l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Non dimentichiamo naturalmente un cordiale saluto al nostro regista, certamente, certo. E questa sera avremo un ospite virtuale al telefono, che è il professor Angelo Fiocco, che ci parlerà dell'Istituto Configliacchi di Padova. Quindi stasera parleremo, saremo a Padova. Naturalmente. Ecco. Bene, allora, prima di parlare col professore, ci ascoltiamo una canzone, e come al solito è una canzone padovana, sempre da Umberto Marcato, Me piace i bigui. Me piace i bigui con la luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Me piace i bigui con la luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità. Quando ia nonna aveva l'osteria, tutti a chiamava, vien qua Gigetta mia, e a che diceva, spete un fiatin, adesso ve porto sai a me col vin. Dammi un voto, dammi un carico, che tu mi qua. Ma dammi un voto. Me piace i bigui coi aiuganega, Gigetta dammea per carità, Gigetta dammea per carità, Gigetta dammea per carità. E manda subito il nonno in caneva, così la vossa el ne porterà, e soi un poco el ne la sarà, finché il ce l'ha. Me piace i bigoli con la luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Me piace i bigoli con la luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità. Gigetta dammea, Gigetta dammea, una bossa piena de vin. Gigetta dammea, Gigetta dammea, una bossa piena de vin. Me piace i bigoli con la luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Me piace i bigoli con la luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità. Gigetta dammea, una bossa piena di vin. Gigetta dammea, Gigetta dammea, una bossa piena di vin. Me piace i bigoli con la luganega, Gigetta dammea per carità, Gigetta dammea per carità, Gigetta dammea per carità. Me piace i bigoli con la luganega, Gigetta dammea per carità, Gigetta dammea per carità, per carità. Ed eccoci di nuovo in studio, e quindi abbiamo in linea il professor Angelo Fiocco dell'Istituto Configliacchi di Padova. Che è il presidente. Che è il presidente di tale istituto. Benissimo. Naturalmente. Buonasera professore. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. Grazie di aver accettato di essere con noi in studio stasera. Grazie a voi stasera, di questa occasione. Sì, sì. Allora, le presento anche il mio collega, il signor Antonio Ceccato. Molto lieto. Salve, buongiorno. Ecco, il professor Angelo Fiocco è il presidente dell'Istituto Configliacchi di Padova. Beh, quelli, i padovani sapranno che cos'è l'Istituto Configliacchi, ma la maggior Venezia e Treviso non lo so. Professore, noi vorremmo sapere i motivi e l'origine della fondazione dell'Istituto. Sì, non so quanto tempo mi darete per toccare questo argomento, perché può diventare lunghissimo come essere sintetizzato in 30 secondi. Se dovessi sintetizzarlo in 30 secondi, direi semplicemente che a un certo punto Luigi Configliacchi, il fondatore, ha avvertito la necessità di dare anche ai ciechi il diritto all'istruzione. E qui potrei anche aver chiuso. Ma forse varrebbe la pena. Certo. Forse varrebbe la pena ricordare in che epoca eravamo. Eravamo. L'istituto è stato fondato nel 1838. Allora, a quell'epoca i ciechi, le persone cieche, quantomeno che vivevano in Italia o in quella che ancora non era Italia, nei vari stati o città-stato che c'erano allora, vivevano, come qualcuno saprà, di elemosina, di carità. Non avevano un mestiere se non appunto quello di questuare, di elemosinare, qualche volta magari anche di essere di far la parte dei clown, bruttissima immagino, stando a quello che si legge delle memorie del tempo. Nessuno, perlomeno a mia memoria, a memoria di quanto si sa, in queste zone aveva una posizione nella quello che oggi verrebbe chiamato il circolo produttivo, no? Bruttissimo da dire, ma è così. Nessuno aveva una posizione benché minima. Luigi Configliacchi indubbiamente ebbe una grossa intuizione. Di sicuro non partiva da zero, perché in Francia già avevamo avuto l'esperienza di Valentin Haüy mezzo secolo prima. In Austria, in Prussia già si cominciavano esperienze di questo genere. Non dimentichiamo che il Lombardo-Veneto era un dominio austriaco, e quindi è molto probabile che per tutta questa serie di ragioni, più effettivamente la constatazione che il gruppo sociale delle persone cieche era in questa situazione di degrado, di fortissimo degrado, spinse Luigi Configliacchi a compiere questo balzo. Non dimentichiamo che Configliacchi, al di là della sua vocazione religiosa, lui era un abate, era anche rettore universitario, rettore dell'Università di Padova, quindi non era uno sprovedutino così di provincia che voleva fare un'opera buona, voglio dire, aveva in testa un piano sicuramente molto più avanzato, certo. Un progetto, ecco. Quindi le sue finalità specifiche qual erano? All'epoca Luigi Configliacchi diceva: dobbiamo dare anzitutto un'istruzione, attenzione, ai ciechi maschi, perché trovino una posizione a livello di inserimento sociale nel lavoro che li sollevi dalla situazione di degrado in cui sono. A quell'epoca Luigi Configliacchi non pensava alle donne, alle femmine, sono venute dopo, dopo l'istituto si è aperto anche al gentil sesso. Sempre penalizzato. Non è colpa né mia, neanche del povero Don Luigi Configliacchi, era la mentalità di allora. Del tempo, esattamente. E non è cambiato molto, magari. Cioè, sì, forse qualcosa. Sì. Qualcosina. Non sì. Come dovrebbe essere, presumibilmente. Saranno cambiati i costumi, poi indubbiamente ancora io credo che oggi si... Il fatto che si parli di quote rosa vuol dire che ancora non siamo capaci di dare alla donna il posto che dovrebbe competere. Concordo pienamente. Infatti. Benissimo. Allora, povere donne sono venute dopo. Si parlava delle finalità giustamente dopo. Specifiche. Le finalità specifiche erano proprio quelle di dare un minimo di istruzione, quindi insegnare a leggere, a scrivere, a far di conto, e dopo anche una professione. Quindi l'intreccio partì fin da subito, ma anche l'accordatura degli organi, l'apprendimento della musica. Non dimentichiamo che all'epoca, per esempio già in Francia, erano molti le persone cieche organiste, anche di chiese di prestigio come Notre Dame a Parigi, per esempio. Ecco, quindi sicuramente fece testo l'esperienza dei paesi francesi, vicini, ecco. Ma non per esterofilia, perché effettivamente lì l'avevano già provato questo passaggio, no? Erano più avanzati di noi in questo senso? Erano più avanzati di noi per uno stranissimo caso, poi, perché si sa che i francesi partirono da una concezione più filantropica che altro, no? Il famoso episodio che capitò non so se posso ricordarlo adesso. Prego, certo. Valentin Auy, che fa la carità a un cieco, siamo a metà del Settecento, seconda metà, fa la carità a un cieco seduto sugli scalini di una chiesa, e questo cieco lo ringrazia particolarmente, in modo particolarmente espansivo, e lui dice: ma perché mi ringrazi così? E dice: perché mi hai dato la moneta più importante che ho ricevuto oggi. E che Valentin Auy dice: ma come, se questa persona cieca, ritenuta incapace di intendere e di volere, riesce invece a riconoscere una moneta, allora vuol dire che possiamo provare a educarli e istruirli. E ci scommise, e dopo vinse, tutto sommato. Ecco. Inventò il metodo. Dopo, da lì partì poi la pedagogia un po' più speciale, diciamo, più dedicata, ma sicuramente il primo approccio fu di tipo esclusivamente filantropico. Mentre, ecco, diciamo che quando Luigi Configliacchi fonda questo istituto, c'erano già stati fatti passi importanti nell'educazione, cioè esisteva già il metodo Braille, per esempio. Sì, appunto. Ecco. E quindi c'era già tutta una serie di conquiste nuove fatte che si potevano utilizzare. E i tratti più salienti, appunto, della storia quali sono, del Configliacchi? Beh, allora diciamo che per lungo tempo, allora, i passaggi potremmo definirli così, dopo questo primo insediamento, chiamiamolo così, peraltro formalizzato anche dal governo austriaco, perché appunto, come dicevo, eravamo in Lombardo-Veneto, dominio austriaco. Piano poi l'istituto cominciò ad aprire gli spazi anche alle donne. Si passò da quella che era una stretta concezione di tipo occupazionale, cioè il minimo base di istruzione per poi lavorare, si cominciò a pensare ad un'istruzione più allargata, più approfondita, e quindi ecco che già ai primi del Novecento noi sappiamo di persone cieche che cominciavano a frequentare le scuole superiori, per esempio. Erano ancora pochi, dopo diventeranno di più. Poi nel contempo l'istituto, anche a livello, diciamo, di struttura, andò ingrandendosi. Prima era diviso in tante piccole, chiamiamole, comunità di alloggio, grosso modo. Pian piano andò sempre più a costituire delle strutture organizzate, quindi con spazi di convitto, spazi per la scuola, laboratori. E anche spazi per gli anziani, mi pare, no? E poi, bravissima, sì, arrivò anche il momento in cui ci si rese conto che se venivano recuperati i giovani, che erano la forza del futuro, però rimaneva una sacca di abbandono tra gli anziani e tra gli anziani non vedenti, nel caso nostro. E quindi ecco che già a metà degli anni 50 viene ad aprirsi proprio una casa di riposo per anziani non vedenti. Tu, Antonio, devi chiedere qualcosa? Sì, i rapporti nel tempo tra l'ente e le pubbliche istituzioni, nel tempo, diciamo, tralasciando quelli attuali, perché poi volevo fare magari una domanda, sì, piuttosto. Questi, come si sono evoluti questi rapporti? Allora, diciamo che l'ente già nel un punto memorabile è il 1896, se non ricordo male, come, insomma, il momento in cui vengono formalmente istituite gli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, oggi li chiamiamo IPAB. E l'istituto Configliacchi fu subito compreso, al contrario di altri istituti, fu subito compreso in quanto ritenuto ente fondamentale come istituto, come IPAB, quindi con un preciso decreto istitutivo da parte dello Stato, che nel frattempo si era unificato. I rapporti, io dico in linea di principio, sono sempre stati con le istituzioni, sono sempre stati rapporti finalizzati alla crescita dell'istituto, tant'è vero che già a partire dalla seconda, no, seconda guerra mondiale, e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, noi abbiamo l'istituzione di una scuola elementare e di un giardino d'infanzia per ciechi riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti. Anche l'asilo avevate? Sì. Anche sì. E si arrivò, pensate un po', si arrivò ai primi anni 60, all'indomani della istituzione della scuola media unificata per tutti gli alunni, quindi era il passo della scolarità obbligatoria fino ai 14 anni, si arrivò addirittura all'istituzione di una scuola media unificata speciale per ciechi, tant'è che al Configliacchi da allora si insediarono proprio delle zone chiamate scuole, scuola media X, scuola elementare Y, scuola materna legata alla scuola elementare, che erano praticamente la scuola dello Stato inserita dentro l'istituto, con proprio personale di segreteria, di assistenza, docenti, eccetera. Dall'altro canto è da dire che proprio in quanto IPAB l'istituto fu sempre al centro dell'interesse del comune di Padova e poi anche delle province venete, perché nel 1933-34 fu emanato quella normativa che imponeva alle province l'obbligo di assistere e di sovvenzionare l'educazione dei ciechi poveri, venivano definiti poveri e educabili. Sì. Brutta come definizione, però era così. Però insomma fu un salto di qualità. Quindi le istituzioni, diciamo, pubbliche hanno sempre visto l'istituto come un punto di riferimento presso il quale far svolgere quelle attività di recupero, di educazione, di istruzione, di formazione delle persone cieche. Ecco. Non dimentichiamo, ma questo non lo dico per vantare primati, l'Istituto Configliacchi è il primo istituto per ciechi fondato in Italia, per un pelo, perché dopo nel 40 arrivò quello di Milano, e qui bisogna dire che lo zampino austriaco sicuramente ebbe il suo effetto, evviva, in mezzo alla dominazione, diciamo qualche di buono vantaggio c'è ci poteva essere, insomma. Senta professore, prima di passare appunto all'aspetto giuridico che è attuale, le dispiace se ci fermiamo un momento per ascoltare una canzone? Certo che no. Benissimo, allora lei resti al telefono che sì. Intanto noi ci ascoltiamo una canzone. Va benissimo. Benissimo. Allora, la canzone che ascolteremo adesso è cantata da Mina ed è intitolata Insieme. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. gesto i sogni miei, sono una traia e nei pensieri tuoi. Eccoci ancora col professor Angelo Fiocco, presidente dell'Istituto Configliacchi di Padova. Professore? Ci siamo. Ecco. Allora, parliamo un po' dell'assetto giuridico attuale. Sì, allora, attualmente l'Istituto rimane ancora un IPAB tradizionale, lo metto tra virgolette, nel senso che nel Veneto, contrariamente a tutte le altre regioni italiane, non sono ancora state riformate le IPAB. E quindi rimane ancora il vecchio sistema dove siedono nello stesso consiglio di amministrazione la provincia di Padova, l'Unione delle Province, il Comune di Padova, l'ANCI, che è l'Associazione dei Comuni, un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, oggi MIUR, e due rappresentanti di tra virgolette di categoria dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ecco. Ovviamente l'Istituto è a tutti gli effetti un ente pubblico, quindi si deve attenere naturalmente a tutti quelli che sono i parametri di canone di gestione degli enti pubblici, come un comune o che so altro, un ente locale, insomma, un ULS, che ne so, ecco, tanto per intenderci. Mi pare di aver sentito dire che adesso come ricovero anziani ce ne siano tanti meno, vero? Meno non vedenti forse, ma allora diciamo che la cosa è strutturata così. Ad un certo punto, facciamo un passino indietro verso la metà degli anni 70, da lì sappiamo che comincia un nuovo percorso a livello di scolarizzazione delle persone con disabilità e quindi anche per i ciechi. Questo cosa comportò? Comportò che piano piano l'istituto andò svuotandosi di allievi ciechi. Nel frattempo, si badi, l'istituto dalle vecchie sedi dove stava si era costruito una struttura enorme dove ci troviamo adesso, che poteva ospitare 400 persone. No. Era una struttura molto grande, diciamo pure anche concepita abbastanza con criteri d'avanguardia, a parte alcune incongruenze di tipo architettonico, però c'era per esempio la piscina, c'erano i campi da calcio, c'erano sale di ricreazione, c'erano le scuole, come ho detto, di vario tipo, dalla materna fino all'istituto professionale, c'era il conservatorio, che era una sezione staccata di conservatorio. Sì, sì. Ecco, quindi era un po' un contenitore a 360 gradi, come si direbbe oggi, o quasi, no? Dalla seconda metà degli anni 70 comincia piano piano questo svuotamento. E ad un certo punto l'istituto si rende conto, gli amministratori di allora si resero conto che si cominciavano a sostenere costi di esercizio molto grossi per una struttura che non aveva più gli introiti che erano stati previsti, sufficienti per poterlo gestire. Ecco, quindi ecco che pian piano si comincia ad aprire la casa di riposo che allora era solo per non vedenti, la si comincia ad aprire al quartiere. E poi piano piano dal quartiere si passa al comune e poi piano piano si passa a tutto il territorio. Per cui oggi noi ci troviamo ad avere una casa di riposo che è decisamente molto considerevole. E anche molto efficiente. Sì, non vorrei peccare di immodestia, però è ritenuta tra le più efficienti di Padova pur avendo le rette più basse. Questo ci tengo a dirlo. Sì. Rapporto qualità-prezzo, come dicono. Il rapporto qualità-prezzo certo. È vincente, è l'unico ente a Padova, l'unica struttura socio-assistenziale pubblica con certificazione di qualità. Però, e anche questo, secondo me, sì. Ha un suo peso. Molto importante. Ciò non toglie che l'istituto però continui a mantenere le sue finalità anche specifiche che derivano dalle tavole di fondazione, quindi il discorso della formazione delle persone con deficit visivo rimane a tutt'oggi un compito dell'istituto. Avete corsi di centralino? Abbiamo corsi di centralino, in questo momento no, perché abbiamo avuto un calo di iscritti che ci ha costretti a spostare un attimo una finestra, perché adesso i corsi sono autorizzati dalla regione, quindi si va per finestre. Se non è buona la finestra del mese X, allora si deve passare alla finestra del mese successivo, non successivo ma Y. Ecco, per cui saltata la finestra di di febbraio, adesso andiamo alla finestra di settembre. Poi si fanno ecco, una novità rispetto a quelli che poteva essere il passato un po' più lontano, più remoto, è che oggi l'istituto interviene anche a domicilio, ove necessario, per corsi di mobilità e autonomia personale, per le persone che o perdono la vista da adulti o anche in terza età, o anche per i bambini, perché a volte diciamo che magari i genitori, le famiglie hanno un po' di paura, hanno un po' di problemi o tanti a sapere come relazionarsi con i loro figlioli con problemi di vista, e allora ecco che noi abbiamo del personale che interviene, che interviene in loco, in modo da assicurare un'assistenza, uno stimolo forte a crescere. E i vostri corsi di orientamento col bastone, logicamente? Col bastone, soprattutto, sì, col bastone. E col bastone, ma attenzione, non solo orientamento, io tengo a precisare, a me piace chiamarli corsi di mobilità e autonomia, perché conta anche l'autonomia nel gestire il proprio sé, il proprio ambiente, la propria casa. Certo. Pensate ad una persona che può succedere, perdere la vista a 60, 70 anni o 50 per incidente o per patologia. Cosa dobbiamo, abbandonarla a sé o alla mercé di qualcuno? No, se quella persona si riesce a tirarla fuori, a convincerla che ha ancora delle potenzialità non indifferenti, la si mette in condizione di potersi gestire la propria vita, di potersi tenere in ordine la casa, di sapere coordinare il proprio look e tutto quello che gira attorno alla vita e alla quotidianità. Cercare di farle amare la vita ancora, perché... Direi proprio, lei ha detto bene, ecco... Io do delle definizioni forse un po' troppo tecniche, ma il concetto di fondo è quello: fare amare la vita. E fare amare la vita lo si deve fare con l'insegnamento delle tecniche particolari, ma anche proprio infondendo quella forza che è necessaria per risaltare in alto, ecco. Sì, perché immagino una persona che perde la vista a una certa età deve essere ancora peggio di chi magari è non vedente da piccolo. Molto peggio, sì. Sì. E Antonio? Sì, niente, io volevo un po' così andare avanti con la nostra disamina sulle eventuali prospettive future. Questo è uno dei due bracci, diciamo, della domanda. L'altro è, essendo l'istituto un esempio di promozione sociale, avete gratificazioni da parte della società civile? Allora, partiamo dalla prima via, sì, certo. Le prospettive future. Non è solo una cosa in animo a noi che dirigiamo l'istituto, ma è una cosa molto sentita a livello sociale, locale. C'è un grosso problema che sta venendo avanti sempre più impellente, che è quello delle persone che nascono cieche e con disabilità aggiuntive. Ci sono persone che nascono premature o che per mille ragioni, insomma, adesso non sta a me andare a scoprire i motivi, ma per mille ragioni sono in situazione di fortissimo disagio, che a essere ciechi è quasi un albero di cuccagna, dico io. Ecco, queste persone attualmente non hanno, c'è già poco futuro per i nostri giovani normodotati, figuriamoci per queste persone che futuro ci può essere. Eppure, le esperienze compiute in giro ci insegnano che è possibile far fare anche a queste persone un percorso di crescita, in modo da far acquisire loro quel minimo di autonomia o il massimo di autonomia che possono acquisire per dipendere il meno possibile. Certo, a un ragazzino, a una persona che sta in sedia a rotelle, non parla, non sente, non vede, è difficile andare a proporre un percorso formativo nuovo. Ma i rinascimentali dicevano provando e riprovando, ecco, intanto provare, e comunque a quelli che hanno delle chance, le chance le si trovano indagando, seguendo, osservando questi ragazzi. Laddove ci sono delle chance vanno sfruttate, delle potenzialità vanno sfruttate, vanno ampliate per quanto possibile. Ecco, qui l'istituto è carente, è ancora in difetto, diciamo così, perché nel Veneto non abbiamo nessuna struttura che si opera, che si muove in questo senso. Voi conoscerete di sicuro la Lega del Filo d'Oro, no? Certo, certo. Ecco, la Lega del Filo d'Oro lavora soprattutto nelle Marche, ma ha aperto una propria sede anche in Lombardia. Ecco, ma la maggior parte delle regioni italiane è completamente scoperta, sguarnita, punto di vista, sguarnita. Io credo che l'istituto con le sue potenzialità debba affrontare anche questo argomento, e non è che non lo stia affrontando, lo stiamo affrontando. Il problema più grosso è che caschiamo in questo momento così terrificante di tagli, no? Dove oramai ci costerà anche l'aria che respiriamo. Andiamo avanti così. Giustamente. Per quanto concerne le gratificazioni eventuali. Per quanto concerne le gratificazioni, guardi, anche qui io rischio di peccare di modestia, però allora, se dicessi che nessuno si lamenta sarei un bugiardo, e io non voglio dire bugie. Quindi le lamentele, le lagnanze ci sono, e io dico che è giusto che ci siano, perché se fossimo convinti che tutto va bene rischieremmo di perdere il contatto con la realtà. Cioè, bisogna essere comunque sempre stimolati a far meglio, no? Però a fronte delle lagnanze, che non sono poi così tante, abbiamo per esempio a livello di famiglie delle persone che sono ospiti in questo istituto delle grosse manifestazioni di stima, di affetto, di gratitudine, anche all'indomani, anche quando i loro congiunti se ne sono andati. C'è anche chi ritiene di dover lasciare dei beni o qualche cosa all'istituto, non granché, perché i tempi sono duri. Però è un segnale, poi, giustamente. È un segnale. E poi un altro segnale che mi ricorda un colloquio precedente con una conduttrice di Radio Blu Veneto. Noi abbiamo assorbito di recente il centro del libro parlato di Padova, che non funzionava più. Ecco, non stiamo a vedere perché, insomma, era stato messo in blackout. Abbiamo deciso di prenderlo in consegna, ricatalogato tutto, rimesso in sesto, ricominciato a distribuire le opere. Ci siamo accorti che però ci manca il personale per registrare opere nuove. Beh, ci crederete o non ci crederete, abbiamo fatto in occasione della celebrazione della giornata del Braille un annuncio, una conferenza stampa. È stato fatto un comunicato diffuso da due o tre giornali locali. Nel giro di una settimana abbiamo avuto solo, faccio per dire, 252 lettori che avevano dato la loro adesione come volontari. E le adesioni stanno continuando. Questo secondo me è un segnale fortissimo. Certo, sì, decisamente, fortissimo. Decisamente. Quindi le vostre prospettive future cosa sono in sostanza? Il settore degli attori minorati, sì, di disabilità, sì. soprattutto. E poi un aggiornamento degli interventi formativi in ragione o con l'evoluzione dei tempi, con l'evoluzione tecnologica, sociale, culturale, con l'evoluzione dell'occupazione stessa. Oggi non probabilmente oggi un centralinista telefonico interessa meno rispetto a 50 anni fa, sì. Perché è tutto automatizzato. Serve però magari una brava persona capace di trattare dati o di rapportarsi con il pubblico a livello di front office, di essere un addetto alle pubbliche relazioni degli enti locali, che tutti hanno il loro addetto alle relazioni pubbliche. E abbiamo già qualche esperienza di qualche non vedente che fa parte degli uffici delle relazioni con il pubblico per la provincia di Padova, per esempio. Io ricordo questa perché è la più vicina ed è molto significativa. Purtroppo bisogna trovare altre possibilità di lavoro. Bisogna trovare altre possibilità. Sì. Ecco. E professore, io così noi non sappiamo come ringraziarla, anche perché così è stata una cosa. Così glielo ho detto. Sono io che ringrazio voi, perché non fa mai male richiamare l'attenzione su questi aspetti, soprattutto in tempi un po' torbidi come questi, in cui magari ogni giorno salta fuori un falso cieco, uno l'ha sentito anche oggi. Anche oggi. Che sì, sarebbe tutta una cosa da trattare a parte. Esatto, va bene, esatto. Io dico che se c'è un falso cieco dietro c'è anche un falso medico, va bene, ma che non mi dicano che adesso solo perché io stendo i panni o vado a raccoglierli o vado fuori ad accendere il fuoco del barbecue sono un falso cieco, perché allora vuol dire che qua se ne capisce poco. D'altra parte, sapete, dopo quel Pinocchio in carrozzina messo sulla copertina di Panorama di un anno fa, c'è da aspettarsi da così a peggio, e allora fanno bene questi momenti di confronto e di richiamo di attenzione. Benissimo. Complimenti a voi per questa sensibilità. No, guardi, siamo io noi che ringraziamo. Ecco, mi scuso di averla chiamata in ritardo, insomma, di averglielo detto in ritardo, ma insomma vedo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, insomma, ecco. Grazie a lei. Vi ringrazio, saluto gli ascoltatori che immagino e spero siano molti, e vi auguro una buona continuazione. Professore, noi la ringraziamo ancora e le diamo la buonanotte. Buonanotte. Grazie mille. Grazie. Benissimo, adesso andiamo con la terza canzone in programma, che è cantata da Gianni Morandi. Ma chi se ne importa? Ed eccoci di nuovo in studio, proseguiamo la nostra trasmissione con alcune cante, conte e tiritere, fiabe e fole di Mariuccia Baraldo Bazzaro, Panda Edizioni 2002 Padova, con illustrazioni di Pietro Regazzo e prefazione di Enzo Croatto. È una raccolta, diciamo, talvolta esilarante di fiabe, di racconti, di tradizioni, eccetera, del padovano. E salutiamo anche Mariuccia. E salutiamo naturalmente anche Mariuccia. L'uomo è a creación. E il buon Dio è che a creai oseti, e il campo è il pra. Ga in calma l'albero del pomo, e poi il gadito, a fago l'uomo. A un tinasso sa postà e a fare l'uomo gattacà. Ga tolto a lengua da un papagaio, a Borias grande sona de un gaio, al leon ga frega sparonanza, al musso ga dimanda scienza. Tolti i corni a un grosso bo, ga ga ponà, con intenzione, poi ga fatto su senza voerlo, pene e becco de un grosso merlo. Vosse maniere che ga frega all'orco, tante robete che ga tolte al porco. Smissia, smissia, mena, mena, par tre note, par tre di. Smissia, smissia, mena, mena, l'uomo che veniu fora così. Dise Adamo, l'ena cucagna, ma star così senza compagna me stufo, gnan dirlo a morte. Na gata da peare te vol torte. E il signore al tinasso le tornà e a far sua femmina il gatacà. Na soeta ga tratto dentro al tino, de na volpe ga messo criterio fino, a lengua ga c'ava un serpente, tonca de na oca tutta la mente. E ga spogliade a mafia il pavon, de cipria ga doparà un scatoion, ga dimandae agreme ai coccodrii, sa impenio de salti dei grii, ga spacega il tutto de ceraiaca, e ga zontà fin un fia de vacca. Smissia, smissia, mena, mena, parte notte e parte di, smissia, smissia, mena, mena, e a femmina è nata così. Ma da racao che il sacro pomo i gavoesto per ben tastare, ga dito Dio, al quanto in cassà, parche mai no gi scoltà. Al sottinasso ge tornà, ge sta i che le ga fregà. Sciafo in tinasso 10 scorpioni, pode na tigre che caso iongioni, a sbiuma che togo un can in rabbia, i Stefani a naiena e pevare masenà. A fiele veen e sento scagotti, vipare rospi bestie e quaioti, 50 chili de dinamite, sento cartucce de bacheite, barba e mustaci de dobriganti, pa ultimo infine i gas sfissianti. Smissia, smissia, mena, mena, par tre note, par tre di. Smissia, smissia, mena, mena, a suocera zenata così. Anonimo, libera traduzione dal romanesco di Mariuccia. Che bella, vero che simpatica. Molto, molto sì. Simpatica. Cosa dici, che ci ascoltiamo molto... una canzone adesso? Ci ascoltiamo, no, volevo, sì. Diciamo, la canta dei creature, che naturalmente ci ricorda qualcos'altro. Sì, sì. O nobile e onnipotente, o Dio Signore, sia lode a vu, onore, gloria e ogni altra benedizione. Vu soio altissimo, ne si prova vivente, e no che omo degno del nome vostro menzionare. Laudassi, Signor mio, vu co tutte le creature, principiando da Messer Fradeo Sole. A cao ne dal di, e coi lumine nu. E lei così tabeo, i sosciantisi da gran slusore, che indoe ne porta nel vostro gran saere. Sipie laudao, Signore mio, par nostra sorea luna ed esoravia estee, che in cielo gli sagomaciare preziose e belle. Laudassi, Signor mio, par fradeo vento, e piasse l'aria e nugo e osserenco ogni tempo, sa che a vostre creature si desto stentamento. Laudassi io, me Signore, par nostra sorea acqua, che ha sede giovamento, umie, zogea e lampra. Laudassi io, me Signore, par nostro fradeo fuogo, da racaone sciarisa a note, e olbeo e giocondo, saldo in botta e forte. Laudassi io, me Signore, par nostra mare terra, che la ne sostenta e guerna, larga de manega co frutti, fiori stramacià e erba. Co chi pardona par amor vostro, sipie laudà, Signore nostro, e chi paindo infermità e tribuazion gabbia conforto. Beati quei che in santa pace sopportarà, da vu altissimo i sirà incoronà. Laudassi io, me Signore, par nostra sorea morte corporae, da cao nessun uomo vivente a può escapoeare. Malbia a quei che si incataria col peccato mortale. Beati quei che si troverà nei vostre santissime volontà, pissiero che a morte dell'anima noi la pairà. Laudate e benedine, o Signore, rende grazie, butene un nocio co grande umilitale. Bella, il cantico delle creature tradotto in padovano. In padovano sostanza. Con qualche mia, naturalmente. Piccola. Sì. Vabbè, insomma, sì. Tu sei trevigiano. Certamente, per cui... certamente. Allora, adesso ci ascoltiamo una canzone. Certo. La quarta canzone in programma, sarà anche l'ultima, penso. Ed è cantata da Julio Iglesias, solamente una vez. Tu che conosci lo spagnolo? Soltanto una volta, direi. Va bene, adesso ci ascoltiamo Julio Iglesias. me la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad, una vez nada más. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación, y cuando ese milagro realiza el prodigio, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad, una vez nada más. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Allora, rientriamo in studio con un'altra poesia, meno, naturalmente molto meno piacevole per certi versi, ma che ci può far ricordare qualcosa. 1944, sterminio a Giorgio Perlasca. Iniquità del dio Paianca, da misura al vaior dei Schei, e noghe oro che paga, ne a sua metafora, è significato della vita. Ancò par un franco i tecopa, par un dio i sescana, a memoria ne ciama dove omani in massa, anni 40, nei treni della morte, i gafato mambassa. Padova se sta dimora de un uomo d'onore, che desmentegando passion, religion e rassa, battendosi par giusta causa, ga esaltà fra de ansa, no più tae se come bestie, posse cagionemo il mae. Copa un uomo te sia un assassin, copa che ne mie te sia un eroe, salva che ne cinque mie, non te sia nessun. Potrebbe essere il motto di chi in Germania gada rifugio salvando, senza rivendicazione sociale o tornaconto personale, omani, putei e donne da nastea segna, zaio il colore, marchio, che segna a vita l'ebreo. Quando nel mondo da nefanda bufera che ne portava assassina guerra, de bombe pareva una tempesta, infuriava a morte funesta e il supiar de sta burana te ga dismissia, scorlandote e parandote a scondere fra dei che, par paura de Caino assassin, vedeva in ogni buso un rifugio. Ti, anima scunia, te si sta fraterna vosse in testo de gheio, passando da Conso e Spagnolo, rischiando a vita a Berlina paromani che segava il verde de rive erbose, domande de nostra vita, che gavaria vangatera, tenendo lontana guerra, omani de buona volontà, par 50 anni te che tenu a scuro, co umiltà, a sta maregna patria che te sapevi davvero onorà. Ma ecco, nel viale dei giusti a Gerusalemme, meiara de ebrei partì un albaro iga piantà, testimonianza e massimo riconoscimento che il Stato israeliano gadà a chi, nella seconda guerra mondiale, s'ha distinto coi perseguitai dal nazismo. Ancora che tenessi più, s'ha dismissiato città, e dove nono e nevodetto, passato e presente, faceva zoghi piccinini, vossete mai usà, rebuti in bocco che noi gapia da essere mai carne da canon e de vaiori, che ha fatto ragion de vita, in banalità del bene, se menziona le tante vite salvà dando che risalto a chi per 50 anni se passà sotto gamba, non gavosse a modestia. Finalmente una targa a memoria vien posà ai giardinetti Pio X e un busto in parte al scaion del comune, tutto se a ricordo desta incredibile storia. Ma qua il canon russa ancora, che semo, se more sempre per schei, rassa e region, che chiama nove vittime e fa si vaga in desmentega che il pan se manco caro de una cartuccia e non l'ha mai fatto carestia. Bella, che bella. Fai in tempo a leggere un'altra? Sì, un'altra, una favola da La Fontaine. Ah, bella. È l'ovo e l'agneo. La foia, che vien trioman, se una lezione. Dice che il forte ha sempre la sua ragion. Un dì nell'acqua l'ampra di un rio chiede un agneo che beveva drio. In tel pipeo salta fuori un lovo maledetto che non mangiava forse da tre dì e pien de rabbiosesso siga. E chi t'ha detto di inturbiare a brenta mia così? Spettami, sproto! Signoria, a lui risponde il povero innocente, se guardassi in brocca in una corsina corseria che a me mi rasento sotto vento via ed è un bentocco. Non posso e acquecciare de a sua regal brentana inturbiare. Mi te dico che te inturbi, i roscaghe, dice drio il lovo scrisciando i denti. Esalano passà, gli sparlotà sora de mi. Non se vuol dire, ciuccio ancora e tette di mia mamma o sire, e a che non c'ero ancora nato? Da sbon si rasta un tuo fradeo. Par cosa mai sta? Non go fradei, giuro, dico la verità. Ste quasi ciacque, sempre un devo altri che me cogliona, se un tocco che so. Devo altri, dei vostri cani e dei piegorari, vendetta me torò. Così dicendo, in mezzo alla foresta, tirandosi drio al meneveo, senza nessuna sentenza, è che ha fatto la festa. E che simpatica, cosa. Molto, molto simpatica. Beh, dai, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, cantata da Gigliola Cinquetti, ed è La pioggia. Cielo, che i passeri lassù non voleranno più, chissà perché. Io non cambio mai, no, non cambio mai. Può cadere il mondo, ma che importa a me? La pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo. Il sole se ne va, l'inverno fa paura. lo sai perché? Io non cambio mai, no, non cambio mai. Può cadere il mondo, ma che importa a me la pioggia? Non vale il nostro amore quando il cielo è blu. La pioggia, la pioggia non esiste se mi guardi tu. Butta via l'ombrello, amor, che non serve più. Ed eccoci di nuovo in studio e vorremmo completare, diciamo, questa serata con un'altra favola di La Fontaine, liberamente tradotta da Mariucce, e che è sempre una cosa molto piacevole. La volpe e l'uva. Una volpe, chi dice de Guascogna e chi de Normandia, mesa morta de fame, l'andava par na via. Ne a tirea de uva l'incapa, così maura e bea da guardare, che madame Igea in botaga pensà de magnargene subito un bel fià. Ma fatto qualche salto, visto che la gera massa in alto, non resta che fargene senza. La dice, no a se maura, le un buon pasto per ghiri e schiratoi, quello che non posso aver, in abbondoeon te dono. E anche questa è sempre una cosa estremamente... Certo che è un dialetto abbastanza difficile da è capire. È un pochino eh? Particolare, sai, sì, io tante parole, sono sincera, certo, non le ho... Certo, certo. Non le ho... Però diciamo che si capisce la sostanza, evidentemente, sì, beh, capisci la sostanza. È universale. Certo. Però, insomma, e qui richiede naturalmente una certa, come dire... Una certa conoscenza del dialetto, sì, padovano. E in ogni caso è la musicalità, quella naturalmente che noi andiamo cercando, in anche la musicalità, oltre al significato... diciamo, oltre alla traduzione così letterale, è la musicalità dei termini che aiuta, sì, evidentemente, sì, è vero, dove naturalmente non si bandon, riesce cioè abbandono, cioè lascio stare, sì, ti lascio tranquillamente. È un dialetto un pochino duretto il padovano, diciamo, particolarmente, sì. Ma è una cosa molto piaciuta, qualsiasi sì, diciamo, dialetto, lingua, eccetera, ha le proprie caratteristiche ed è una stratificazione di varie epoche, chiaramente, quindi è... Per esempio il veneziano lo si capisce meglio, sì, sì, e probabilmente sono delle, Padova sono stati i primi, diciamo, come importazione dalla, sì. Quindi, e qui abbiamo che a Castelfranco un po' sì, risentono, certo, del ci dialetto, sono le varie, ci sono le varie sfumature, padovano, ci sono le varie nuance e compagnia. Io avevo portato anche una poesia di Walter Boldrin, ma non facciamo tempo, la no, sentiremo sì, la prossima volta. Benissimo. Niente, qui abbiamo naturalmente anche questa sera velocemente passato questi tempi brevi che ci sono. È sempre troppo breve, sembra, sì, l'ora, sì, che ci compete. Ringraziamo ancora il nostro ospite, il professor Fiocco, che è stato gentilissimo, Fiocco, è stato molto esauriente. Esattamente. Ecco, e salutiamo anche le amiche fuori zona. Certamente, insomma, in modo particolare le amiche, sì, che ci ascoltano da fuori sciapo, diciamo noi, sì, ecco, sì, fuori, sì, sciapo, sì, quindi fuori dal nostro ambito abituale, insomma, ecco. Allora, Antonio, io ti ringrazio. Ringrazio te e ringrazio soprattutto le ascoltatrici, ecco, e gli ascoltatori. Ed io, come sempre, con te e col nostro regista Eddie Deitch, auguro a tutti una serena notte con Ciao Ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.